il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Nella fascia litoranea veneta esistono delle riserve naturali protette e, sembrerà strano a qualcuno, non si tratta solamente di aree umide, ma vi sono anche aree alberate. Parliamo oggi addirittura di un bosco, la riserva di Bosco Nordio, che è nei pressi di Chioggia. Questa riserva millenaria in realtà, ma compie 45 anni come riserva, e ne parliamo con il responsabile, il dottor Federico Vianello, che è anche responsabile dell'unità complessa riserve e aree naturali protette di Veneto Agricoltura. Benvenuto dottor Vianello. Grazie, buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Ecco, quello che volevamo capire è, beh, innanzitutto, che cos'è questa riserva e dove si trova Bosco Nordio. Bosco Nordio è un'area di 113 ettari che si trova a est della strada statale Romea, in località Sant'Anna di Chioggia. È quello che resta di un bosco molto più esteso che circa 1000 anni fa, quando il mare raggiungeva questo tratto di costa, era un bosco che stava proprio alle spalle del mare, e infatti ancora oggi cresce su delle dune, diciamo, fossili. Quindi all'epoca non c'era solamente laguna e paludi, ma vi erano anche delle zone boscose anche a ridosso del mare. Certo, questo è tipico della costiera alto adriatica sabbiosa, nella presenza di questi boschi a poca distanza dal mare, boschi che sono stati poi nei secoli sempre governati dall'uomo. Questa riserva è l'unica riserva di questo tipo che c'è nella nostra fascia litoranea, o vi sono anche altri boschi, diciamo? Altri esempi, lei mi dice. Ci sono altri esempi di aree naturali. Ecco, come riserva regionale c'è solo questa di bosco così costiero, e questa è la sua particolarità. Ha una storia anche molto così curiosa e particolare, perché è dal 1971 che è riserva. È stata a lungo riserva statale, quindi gestita dal Corpo Forestale dello Stato, e dalla fine degli anni 90, dopo un lungo contenzioso Stato-Regione, Bosco Nordio è diventato regionale, quindi è stato affidato dalla Regione a un'azienda che si chiama Veneto Agricoltura, che fa proprio la gestione del patrimonio demaniale ambientale. E pian piano si è anche trasformata, ecco, perché inizialmente il Corpo Forestale la gestiva proprio come un'area chiusa, ecco, anche se al suo interno si svolgevano delle attività in realtà antropiche, tipo la coltivazione di pioppi, orti, eccetera. Quando è diventata regionale, tutte queste attività sono state dismesse, è stata fatta una serie di interventi di riqualificazione ambientale, e però contemporaneamente si è iniziato a utilizzarla, ad aprirla, ovviamente con modalità di gestione controllata, ma insomma ospitiamo visite scolastiche e gruppi associativi, e soprattutto questa riserva oggi ha un'importanza come centro di ricerca ecologica applicata. Abbiamo annualmente decine di studenti universitari, non solo dalla vicina facoltà di Padova di Scienze Forestali, ma anche Scienze Naturali, Scienze Ambientali di Venezia, perfino dalla Facoltà di Scienze Naturali di Bologna vengono studenti che ospitiamo qui in riserva. Abbiamo per questo una foresteria che diamo a uso gratuito, proprio perché per noi è importante mantenere questa riserva come un centro di ricerca. Ci fermiamo per qualche secondo, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando con il dottor Federico Vianello, responsabile della riserva naturale di Bosco Nordio e dell'unità complessa riserve aree naturali protette di Veneto Agricoltura. E stavamo parlando proprio di Bosco Nordio, di questa riserva naturale che compie 45 anni quest'anno come riserva naturale, ma ovviamente molto più antica. E volevamo un po' sapere che cosa c'è all'interno di questa riserva, sia come flora sia come fauna. La caratteristica più interessante della riserva è questo bosco di leccio molto esteso, che è probabilmente il bosco più settentrionale di tutta la costa adriatica. Il bosco di leccio si intermezza al querceto e a alcune zone di pineta. Ospiti sono specie fiorifere e specie animali molto rare nel contesto territoriale veneto. La specie bandiera per questa riserva è però un piccolo rospo che è stato trovato qualche anno fa nella località qui vicino a Porto Calais ed è stato portato a Bosco Nordio per farlo riprodurre, per costituire una popolazione autonoma che oggi è florida e in fase di accrescimento. Questo rospo si chiama Pelobate, è proprio un piccolo rospo che vive gran parte dell'anno su terra, quindi è difficile anche da essere osservato, ma qui in riserva, con particolari acquari e stagni didattici, è possibile facilmente vederlo. Ecco, una domanda forse da profano. Lei ha parlato di leccio, noi siamo abituati a vedere nelle zone nostre marittime appunto il pino marittimo, che in realtà, da quanto ho capito, c'entra molto poco con le nostre aree costiere, mentre il leccio forse era un albero presente già anche nel passato. Sì, il leccio è quello che, diciamo, è il punto d'arrivo dell'evoluzione naturale del bosco. Il pino è stato più volte introdotto, l'ultima volta probabilmente proprio dal signor Nordio, che era un nobile, che alla fine del 1700 fece una piantagione per, si sa, per cercare di produrre pinoli, una produzione quasi industriale di pinoli. Però il pino circa ogni 15-20 anni, a causa di gelate tardive, subisce dei danni e quindi fa fatica in questo territorio a raggiungere le dimensioni che per esempio si osservano già più a sud, a Ravenna. Visto che nella zona di Chioggia e sottomarina saranno molti i visitatori estivi che verranno per le spiagge, ovviamente, come possono eventualmente, se è possibile, venire nella vostra riserva e visitarla? Oppure se si può solamente in gruppi organizzati prenotando? La visita generalmente che noi cerchiamo di favorire è proprio quella di gruppi organizzati, anche perché l'accesso è possibile solamente con una guida ambientale che accompagna i visitatori, offrendo anche un servizio così di spiegazione. Vi sono però nel corso dell'anno alcune domeniche aperte in cui chiunque può entrare e formare dei gruppi e con la guida girare la foresta. Nella riserva c'è un centro visitatori che spiega molto bene le caratteristiche ambientali e vi sono una serie di percorsi didattici attrezzati con tabellonistica di tipo interattivo, quindi con parti sonori, parti che si possono muovere, che inducono non solo i ragazzini delle scuole ma anche, diciamo, un pubblico adulto alla conoscenza e all'apprendimento delle caratteristiche naturalistiche di quest'area. Ecco, vi è un sito internet dove recuperare le informazioni? Certamente, nel sito di Veneto Agricoltura ci sono le indicazioni. Noi poi ci avvaliamo di una cooperativa di Chioggia, di guide ambientali, che si chiama ILA, e anche in internet cercando ILA con l'H e la Y si ottengono le informazioni e i numeri telefonici per organizzare la visita alla riserva. La ringrazio. Grazie a voi e buon lavoro. Andiamo adesso a chiudere la trasmissione con due brevi notizie, anzi con una notizia e un appuntamento. La notizia è che il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la nuova legge con le misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie. Quello del sovrappopolamento delle nutrie, infatti, lungo i nostri corsi d'acqua, è un problema che negli ultimi anni ha assunto un carattere quasi di emergenza, soprattutto per i danni creati agli argini. I passaggi salienti della nuova legge riguardano la previsione di piani di eradicazione e il coinvolgimento a diversi livelli degli enti regionali, provinciali e dei comuni, dell'ARPAV e anche delle USL. Sono stati introdotti vari metodi di eradicazione che tengono conto dei pareri degli istituti nazionali di prevenzione. A cacciare le nutrie potranno però essere solamente soggetti selezionati dalle province, la polizia provinciale e locale, gli agenti venatori volontari, guardie giurate, operatori della vigilanza idraulica, proprietari o conduttori dei fondi agricoli, muniti di licenza e altre persone purché autorizzate. Per la copertura finanziaria sono stati stanziati 250.000 euro che saranno utilizzati sia per le trappole sia per smaltire le carcasse. Plaudono all'iniziativa le principali organizzazioni degli agricoltori. Rimane urgente, sottolinea ad esempio Coldiretti Veneto, un testo organico sul complesso tema del controllo e risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica. Lupi, orsi, cervi, cinghiali, corvi e cornacchie sono presenze devastanti in campagna. Il conto dei danni arrecati ad allevamenti, colture e vigneti, continua Coldiretti Veneto, supera i 2 milioni di euro. Sabato 28 e domenica 29 maggio si tiene a Lamon, in provincia di Belluno, la seconda rassegna della pecora di Lamon. La manifestazione passerà in rassegna ai migliori soggetti di questa specie ovina, ma sono previsti anche il mercatino tipico, dimostrazioni di lavorazione della lana, tosatura, laboratori didattici e, domenica mattina, la creazione e premiazione dello spaventapasseri più bello. Informazioni sul sito del comune www.comunelamon.gov.it. Con questo è tutto per questa settimana, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio alla prossima, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.